le lavoratrici che fanno riferimento alla Confederazione, appunto, in diverse città italiane, sciopero che è stato dichiarato per l'intera giornata. Noi siamo al telefono con Vincenzo Migliucci. Ciao Vincenzo. Ciao, buongiorno a voi. Allora, dunque, uno sciopero che tra l'altro si colloca all'interno, insomma, di uno scenario in movimento, no? Quello della politica italiana, di cui nolenti o volenti occorre comunque tener conto, non fosse altro per il fatto che il governo entrante si accinge a promulgare tutta una serie di misure, insomma, che probabilmente accelereranno quella compressione di diritti che già, insomma, era in agguato da un po' di tempo stante la situazione economica generale, no? Sì, intanto lo sciopero indetto non solo dai COBAS e dalla CUB, ovviamente nella giornata mondiale degli studenti, a cui hanno aderito ovviamente il forum dei movimenti per l'acqua, varie realtà della rete rifiuti zero, le strutture del precariato soprattutto al nord, a Milano, e quelle dell'immigrazione un po' sparsi per tutta Italia. Saranno al momento 23 i capoluoghi di provincia dove ci saranno iniziative, quasi tutti di corteo, ci sono alcuni presidi nelle situazioni più piccole, e ovviamente il momento più topico sarà qui a Roma, ma anche Milano ovviamente contribuisce, per dire, i capoluoghi di Bologna, Firenze, Genova. Nella Genova martoriata si faranno fare i conti alla signora Vincenzi, che ha combinato quel po' di disastro ovviamente a Genova, oltre il problema della Fincantieri che domina costantemente quello scenario. Sì, tu dicevi bene ovviamente, ma il problema è che il passaggio da Berlusconi a Monti, cioè dal governo del Magnaccia al governo dei banchieri, diventa un aggravante. L'aggravante oggi passa per tutte le comunicazioni, non poteva essere altrimenti, è il governo dei sacrifici, come se i sacrifici a coloro i quali vengono destinati non l'avrebbero mai fatta fino a questo momento. È una storia di sacrifici che il vecchio movimento operaio, i nuovi operai precari, la situazione ovviamente delle famiglie, l'aggravante sui pensionati, non fa nient'altro che fare sacrifici da sempre, campare con l'arrangiarsi e vivere di poco. E in questa situazione ovviamente ha preceduto l'ultimo atto del governo Berlusconi la manovraccia, insomma, quella che ha disposto una quantità di tagli pesantissimi ovviamente a quello che era il welfare italiano, e soprattutto ha modificato costantemente quelli che sono i rapporti di forza, tenuto conto che ha introdotto ovviamente la facilità di licenziare all'interno del quadro già precario dell'esistente, la possibilità di fregarsene dei referendum, quello dell'acqua in primis, ma anche quello sui rifiuti, ovviamente il trasporto pubblico locale, indicando che bisogna comunque superare il referendum e privatizzare. Se non lo faranno gli enti locali, lo farà il governo. Questo è scritto nella manovraccia. Per non parlare ovviamente delle pensioni, che ormai sono arrivate alla soglia dei 70 anni e che questo governo metterà a mano, secondo l'indicazione della lettera della BCE firmata da altri banchieri ovviamente, quel passaggio così drammatico che elide il contenuto delle pensioni in sé, che Dini messe mano fortemente nel 1995, quello del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, e ovviamente si sta discutendo, e vedrai che arriverà a questa conclusione, che diventerà tutto contributivo anzitempo, e l'anzianità posizionata a 70 anni nel 2050, a 67 nel 2026, diventerà molto presto ovviamente l'impossibilità di dare pensioni a chiunque, per cui si passerà dal tutto lavoro alla precoce andata senza più quel welfare fondamentale. Sulla casa ovviamente ci sono dei gravami formidabili, si sta discutendo se venga ripristinata l'ICI oppure venga inserita una patrimoniale leggerissima ovviamente per chi ha quei grandi patrimoni, soprattutto la furbizia vuole che vorranno rivalutare le rendite catastali, così aumentano tutti i cespiti, tutte le tasse relative ovviamente a quella che è l'ICI sulla seconda casa, l'IRPEF ovviamente sull'anno, l'imposta sul registro, l'ipoteca, il catasto, insomma una serie di furbate che non finiscono mai, mentre la situazione potrebbe ancora di più peggiorare. E allora è stato previsto di già che nel pubblico impiego venga applicata la cassa integrazione, modificheranno una legge ovviamente eccetera, perché la cassa integrazione fino a questo momento viene inserita solamente nel mondo industriale e in deroga anche in quello commerciale, viene imposta la mobilità a livello nazionale, quindi capirei le piante organiche verranno completamente sconvolte e diventerà come dire, la discrezionalità nei confronti di chi lotta, chi non lotta eccetera e via di seguito. Nel privato la contrattazione Marchionne farà passi da gigante, perché ovviamente non regge una situazione del genere in contrasto tra virgolette con le formalità della Confindustria, anche se la Confindustria poi ha portato a casa l'accordo del 26 di giugno ovviamente, con cui i sindacati abdicano a qualsiasi funzione del contratto collettivo di lavoro e addirittura la rappresentanza, ripristinando le vecchie RSA molto, molto simili ovviamente alle commissioni interne disgraziatissime degli anni 50 e inizi 60. Verranno vendute, come verranno vendute all'incanto, gran parte del demanio pubblico, compresi enormi terreni ed immobili, quindi sottraendoli a tutto quello che è il lavoro che fa il Comitato di Lotta per la Casa per poter accedere ovviamente in una forma comunque importante a soddisfare un tetto e via di seguito. E se non basta ancora questo, sono all'ordine del giorno la vendita di gran parte di quelli che sono considerati gioielli di famiglia, in particolare quelli della Finmeccanica, Capita Cecio, che ha un buco, guarda caso, di 550 milioni di euro, e quindi sono all'asta in questo momento la vecchia Ansaldo, l'Ansaldo Energia, ma l'Ansaldo anche in comunanza con la Breda, sempre di proprietà della Finmeccanica, così che viene meno anche uno dei capisaldi di quello che è stato la storia della ferrovia in Italia, con la costruzione di elettromotori, con la costruzione delle carrozze, ormai è diventata, come dire, in sottordine per favorire la Alstom francese oppure ovviamente la General Electric. E ancora la Lenia ha già indicato che chiuderà una decina di stabilimenti qui in Italia e sono in sofferenza un po' tutti quanti. Se non bastasse ancora questo, verranno vendute le Poste, le quote rimanenti del 33% in Eleni e altre moto ovviamente nelle ferrovie dello Stato. Mi sembra che lo scenario è talmente tragico per cui questo sciopero oggi sta dentro, come dire, le pieghe di un movimento che comunque sia non ha delle difficoltà a mantenere l'azione, a diventare permanente, ma che comunque sia significherà ancora maggior stimolo affinché ci sia tra qui la necessità di dare risposte veramente forti, perché se passa questo governo con questa funzione, hai voglia di dire bipartisan, insomma estremamente corale, in cui coloro i quali dovrebbero rappresentare i cittadini ce la fanno con i banchieri e si affidano ai banchieri, coloro i quali ovviamente hanno depredato e hanno portato a questo livello di crisi la soluzione della crisi, puoi capire bene in che mani stiamo. Di più, ci piange il cuore a dire, ma saranno presenti nell'area di Palermo ovviamente delegazioni dei lavoratori della Termini Imerese, la cui mannaia è stata già predisposta da quel porco di Marchionne, indicando nel 23 novembre l'ultimo giorno di attività, e non si vede una via d'uscita, insomma, per cui in questa sofferenza generale, in questa difficoltà generale, un piccolo spiraglio verrà sicuramente assicurato in questa giornata di domani, poi necessiterà mettere mano ovviamente a molte molte più energie possibili per poter avere voce in capitolo in questa enorme bagarre della crisi. Eh beh, insomma, Vincenzo, tu ti sei soffermato su una serie di temi, una carrellata che in un certo senso ci ha consegnato, no, la realtà sia del processo di deindustrializzazione che ormai ha coinvolto pienamente da molti anni il nostro paese, e chiaramente quella della svendita dei colossi a cui tu hai fatto riferimento non è altro che la conseguenzialità, anche se vogliamo, di questi passaggi, no? E poi insomma le misure così gravi che stanno per essere prese a danno soprattutto della classe dei lavoratori e delle lavoratrici. Facevi riferimento anche alla cassa integrazione, tra l'altro stanno anche per scadere i termini insomma di erogazione della CIG, quindi evidentemente che sono proprio cresciuti esponenzialmente negli ultimi mesi. Bisognerebbe capire insomma se si rinnoveranno o meno. C'è appunto la chiusura anche di Termini Imerese, una miriade di vertenze che iniziano comunque a enumerarsi insomma anche all'interno del nostro territorio. L'altra settimana facevamo riferimento ai licenziamenti nel campo dell'editoria, ma se vogliamo nel settore dei trasporti c'è grande fermento, non solo sul piano del trasporto pubblico locale, anche in ferrovia ci sono 800 licenziamenti che probabilmente saranno eseguiti. Sì, Luciano, ti aggiungo dicembre. Proprio in ferrovia, perché abbiamo avuto modo di leggere alcune lettere ovviamente che il porco di Moretti ha indirizzato ai suoi consanguinei CGL, CISL e UIL, in cui, paventando i rapporti con la ex maggioranza che non intendeva dare il supporto annuale che dà le ferrovie, circa un miliardo e mezzo l'anno, ovviamente per far decollare soprattutto l'alta velocità, mancando quel supporto Moretti annunciava che erano in difficoltà addirittura di poter dare gli stipendi di novembre e di dicembre, immaginando ovviamente che una serie di trasporti, soprattutto quelli pendolari, soprattutto il trasporto regionale, veniva completamente eliminato dalla gestione ferroviaria ovviamente. Quindi ci troviamo di fronte a ricatti e nello stesso tempo minacce attuariali di quelle che tu hai già annunciato con i numeri a centinaia. Qui ci troveremo di fronte ovviamente ad una situazione pesantissima che già per molti versi, di fronte a queste inadempienze, di fronte alle porcherie che combina la gestione delle ferrovie, vedi poi la storia di Viareggio e l'ultimo licenziamento, quello del compagno Antonini, che grida vendetta per come è stato fatto, perché lui si è messo solo a disposizione della sua comunità per difenderla, ovviamente tra l'altro ha dei parenti morti nella strage di Viareggio, eppure viene licenziato perché le ferrovie non hanno più fiducia in lui. Ma tu capisci a che livello stiamo. Eh sì, anche di questo infatti ne abbiamo parlato le scorse settimane. Però Vincenzo, ecco, la situazione è così grave e, come tu giustamente dicevi, si fa comunque difficoltà a tradurre poi nel quotidiano una tensione sociale che evidentemente c'è all'interno delle componenti di classe, diciamo, però sotto forma magari soltanto di borbottio, no? E si fa fatica poi invece a dargli un po' la stura a questo borbottio affinché si riempiano le piazze. Da questo punto di vista bisogna dire che comunque è chiaro, il 15 ottobre, senza volerci ritornare su, ha esacerbato anche un po' le divisioni, no? Però questa cosa che si marcia sempre comunque divisi anche rispetto agli appuntamenti di sciopero generale un po' pesa, no? Pesa senz'altro ovviamente, ognuno farà la sua parte, insomma si cercherà di ritradurre ovviamente almeno in unità d'azione, perché se questo manca ovviamente tarda qualsiasi possibilità di essere un punto di vista credibile, di essere un rapporto di forza. Ci si prova, poi non si arriva a quell'attimo fuggente, chiaramente ciascuno paventa orticelli piccolissimi, sempre più ridotti ovviamente in questa storia, e alla fine grava, come tu dicevi, ovviamente anche disastri come quello del 15 ottobre, a cui si spera di poter rimediare il sabato prossimo, non questo ovviamente, con un'altra grande manifestazione, quella per l'acqua e i beni comuni, di fronte all'inadempienza del governo che vuole bypassare il referendum, e quindi ci si sta mobilitando un po' da tutta Italia. Già abbiamo certi numeri che vanno oltre i 100.000 persone, che quindi porteranno a Roma ovviamente questa rivendicazione talmente forte di fronte a un governo che non c'è più e che questo non può fare altrimenti se no viceversa si troverà questa almeno enorme opposizione che ha visto una formidabile vittoria con il referendum, che però se non la porti a casa poi diventa un'altra trappola da questo punto di vista. Quella stessa giornata verrà indicata a tutta Italia un'azione risarcitoria, quella del 7% del referendum sulla bolletta dell'acqua, che pone fine alla remunerazione del capitale, quindi è una intesa importante perché sottrae uno dei pezzi dominanti ovviamente del sistema capitalistico, quello di inserire nei servizi ovviamente un rateo che si mettono in tasca a prescindere, e se costoro non ottemperanno già è pronto ovviamente il sistema dell'autoriduzione a livello nazionale. Sono poche cose, ma sono estremamente indicative. Se ciascuno mettesse ovviamente nelle proprie vicende, vertenze, resistenze, altrettanta azione diretta, presumo che faremo dei passi avanti, ma io me lo auguro. Insomma, la situazione è tale che di fronte al governo dei banchieri, mandato via il puzzone, se non si pone in essere ovviamente una larghissima piattaforma sociale e una capacità di starci dentro una piattaforma sociale attraverso il rispetto di tutte le componenti e soprattutto un ripristino dei rapporti di forza, sarà difficile, come dire, opporre qualcosa di serio a questi signori che tentano di volare ovviamente avendo il supporto di tutti i partitacci del Parlamento. Benissimo, senti Vincenzo, l'appuntamento romano è allora entro le 9:30. È scaduto insomma l'editto alemagnano. Più che scaduto, ecco, lasciami dire due cose su questo, perché abbiamo dovuto faticare, l'abbiamo fatto un po' per tutti, prima quello dell'acqua ovviamente, che è andata a finire sul tavolo di Maroni, non volevano darci che un corteo periferico, siamo riusciti a porre in maniera molto netta questo corteo dell'acqua del 26 di novembre, che va da Piazza della Repubblica fino a Bocca della Verità, intesa quella come ormai piazza simbolo della vittoria referendaria. Qui altrettanto, quando si è posto il problema una decina di giorni fa, gli si è detto che noi volevamo andare al centro di Roma, non ci rompessero i coglioni, c'è uno sciopero generale eccetera, hanno detto no, divieto assolutamente, ma non tanto solo sulla vicenda ovviamente del sindaco fascista, insomma, che fa le veci della polizia, quindi siamo proprio al podestà, ecco, diciamolo pure in questo tempo. E però il giorno dopo ci hanno detto, ma allora non avevamo capito, lo sciopero generale, lasciateci la comunicazione. Ci state ieri e l'altro ieri due riunioni di corsa che sono arrivate fino al prefetto ovviamente eccetera, e alla fine è sembrato quasi, almeno questo sembra a noi, che la questura, la prefettura è molto scocciata di quanto sta facendo Alemanno e che quindi non in bisticcio con Alemanno, ma dicendo ovviamente che dovranno nella giornata, in particolare la giornata di domani, che è una giornata in cui anche tutte le scuole di ogni ordine e grado, a partire dai medi superiori, potranno fare i loro corteucci. Noi ci siamo spesi in questa storia, non pensate di attaccare nessuno, toglietevelo dalla testa di fare quello che avete fatto a piazzale della stazione di Tiburtina, entreremo in conflitto direttamente con voi, perché domani è una giornata di lotta generale, addirittura a carattere mondiale per gli studenti, c'è uno sciopero anche del trasporto, attenzione, perché un divieto di questa natura poi porrà sugli scudi ovviamente qualsiasi riflesso odierno e successivo. Ieri sera addirittura un'ultima convocazione urgentissima alla visura del questore, del capo del gabinetto eccetera, c'è l'autorizzazione che già c'era stata, come dire, l'accettazione del percorso che arriva da Piazza della Repubblica a Piazza Santissimi Apostoli, e ci siamo detti tutti quanti, lavoratori, precari, pensionati e studenti, gli studenti partiranno da Piazzale della Minerva, insomma da Piazzale Aldo Moro ovviamente eccetera, raggiungeranno Piazza della Repubblica, poi insieme e in varie forme raggiungeremo appunto Piazza Santi Apostoli, ma ancora non è dato sapere se il governo che avrà l'incarico tra qui e qualche ora si porrà immediatamente al voto del Senato, perché così funziona. Beh, se domani c'è il voto del Senato, ci siamo detti con l'ordine pubblico, noi staremo poi in varie forme sotto il Senato, perché lì vorremmo, come dire, protestare oltremodo nei confronti di qualcosa che nasce e che sicuramente taglia le gambe a gran parte del popolo italiano. Perfetto, allora grazie Vincenzo del resoconto così dettagliato, insomma vedremo domani se effettivamente ci sarà questo primo voto di fiducia al nuovo governo e insomma la risposta quindi sarà immediata quantomeno da parte della vostra confederazione. Proprio così. Ciao Vincenzo, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi tutti, ciao.